Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi ricordate il signor Bonaventura che aveva un assegno di 1 milione da prendere? Questo per chi era ragazzo o bambino negli anni 70, poi negli anni 80 l'assegno del signor Bonaventura è diventato di 1 miliardo. Oggi parliamo di un'azienda manifatturiera straniera che ha deciso di investire 1 miliardo di euro in Italia. E questo assegno dai 1 miliardo di euro ce l'ha in mano Daniele Finocchiaro, che è l'amministratore delegato della Glaxo, un colosso farmaceutico che ha deciso di fare dell'Italia una base fondamentale nel mondo per i vaccini. Buongiorno signor Bonaventura, no, signor Finocchiaro. Buongiorno a lei. Allora, 1 miliardo di euro per un'azienda come la vostra, che è un colosso internazionale, 23 miliardi di sterline di fatturato, 105.000 dipendenti, ma che in Italia fa solo 1,6 miliardi di fatturato, ecco, 1 miliardo di euro di investimenti di Glaxo in Italia, soprattutto nel mondo dei vaccini, è una cifra pazzesca. Come mai questa decisione, che tra l'altro almeno una buona notizia non fa mai male? Finalmente una buona notizia, ha ragione. Eviterei di vederlo come un assegno del signor Bonaventura, lo vedrei soprattutto come una capacità di un'azienda che sta sul territorio italiano dal 1932 di continuare a investire in un paese in cui crede. Perché purtroppo o per fortuna in questo paese abbiamo tantissime eccellenze che spesso non percepiamo come eccellenze. Quindi GSK vuole continuare a investire nelle eccellenze in questo paese, che sono eccellenze di ricerca, di produzione, quindi eccellenze di assoluto rilievo. Questo miliardo di investimenti in 4 anni andrà 673 milioni nel farma tradizionale, 464 milioni nei vaccini e il resto tra consumer, healthcare e manufacturing. Sì, dice bene, però cerchiamo di vedere questo qua nella prospettiva un po' più di lungo periodo della storia di GSK in questo paese. GSK in questo paese è vaccini e anche e soprattutto farmaceutico, sì, con attività di produttiva che abbiamo da tantissimo. Cosa fate nel farmaceutico tradizionale oltre ai vaccini? Facciamo malattie respiratorie, HIV, sistema nervoso centrale, quindi un po' su tutto lo spettro del farmaceutico, della primary care, come si dice in gergo. Certo. Però c'è una cosa che secondo me vale la pena molto di sottolineare, del fatto che nel settore dei vaccini l'Italia è leader in assoluto e siamo riusciti attraverso un'acquisizione che è stata fatta, forse la più grande acquisizione fatta da GSK nel territorio italiano, perché abbiamo acquisito la parte dei vaccini di Novartis nel 2014. C'è stato uno scambio. Noi abbiamo dato la parte dell'oncologia a Novartis per 16 miliardi di dollari e abbiamo acquisito la parte dei vaccini di Novartis per 6,5 miliardi di dollari. Di quei 6,5 miliardi la maggior parte erano per l'acquisizione del distretto di Siena. Il distretto di Siena è un polo di eccellenza in assoluto e da quel momento abbiamo raddoppiato la nostra presenza in Italia, perché siamo arrivati a 5.100 dipendenti in Italia, quindi fa di noi un grandissimo player industriale del paese. Peraltro l'Italia è il secondo player farmaceutico d'Europa, mi risulta, no? Dopo la Germania ci siamo noi, anche se non abbiamo grandi aziende. Non abbiamo grandi aziende, però abbiamo il 73% in assoluto di export, perché dei 31 e passa miliardi di euro che sono la produzione farmaceutica nel 2015, il 73% è in esportazione, quindi vuol dire che in Italia ci sono tutte le condizioni per fare per poter diventare il primo produttore farmaceutico. Siamo abbastanza poco dietro la Germania e abbiamo distaccato notevolmente la Francia e la Gran Bretagna, quindi è un'aspirazione che secondo me può diventare realtà nel giro dei prossimi 2 o 3 anni. E Glaxo è una delle prime aziende, lei la chiama GSK perché è l'acronimo di GlaxoSmithKline, no? Diciamo che ormai ci chiamiamo GSK perché è il frutto di un po' di fusioni che nel tempo ci hanno accorpato e che hanno fatto della Glaxo una GSK che è ancora più grande nel territorio italiano. Comunque voi fate 23 miliardi di sterline totali di fatturato, di questi 23 miliardi 3,7 miliardi sono nei vaccini e l'obiettivo è di arrivare a 6 miliardi nei vaccini entro il 2020. È un obiettivo ambizioso, però proprio per quello dobbiamo investire. Allora, questo miliardo di investimenti del signor Bonaventura vanno essenzialmente in attività di produzione che sono sia farmaceutiche che dei vaccini. Abbiamo 4 stabilimenti produttivi. quindi circa 200 milioni. 500 milioni vanno in attività di ricerca pura, perché voglio sottolineare che l'Italia è un paese di eccellenza. In Italia è stato scoperto il vaccino per la meningite B, che viene venduto dall'anno scorso in tutto il mondo. Quello del professor Lino Ruoppoli, no? Sì. Ed è un vostro vaccino, quindi la meningite B può essere soggetta di vaccinazione. Questo lo diciamo agli ascoltatori, è importante. Assolutamente, ed è importantissimo ricordare come la vaccinazione è l'elemento di prevenzione di civiltà più alto che si può. Ecco, adesso avere, però quindi... la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Daniele Finocchiaro, che è il numero uno in Italia di GlaxoSmithKline, che viene chiamata con l'acronimo GSK, che è un colosso britannico ma che in Italia ha una base importante soprattutto a Siena, e che ha annunciato la bellezza di 1 miliardo di euro di investimenti in 4 anni. Stavamo parlando col dottor Finocchiaro del fatto che questi investimenti saranno per lo più nei vaccini, e a Siena c'è l'importante scoperta senese del professor Lino Ruoppoli, che ha scoperto e portato in produzione il vaccino contro il meningococco B. Finocchiaro, ne state studiando altri, perché sono tanti i meningococchi? Ci sono tanti vaccini sulla meningite, però ci sono tanti vaccini già disponibili sul morbillo, sulla parotite, sulla rosolia. Ne abbiamo sviluppato uno per la malaria che va per i paesi del terzo mondo, sempre a Siena. Tutto a Siena. Tutto a Siena, quello della malaria in Belgio, a Siena uno per il tifo, che è più per i paesi in via di sviluppo, ma che si sta lavorando anche molto lì, perché di tutta la produzione dei vaccini di GSK l'80% della produzione va nei paesi in via di sviluppo a costo sostenibile per loro e quasi a prezzo di costo per noi. Ecco, noi finora abbiamo parlato di ricerca, di investimenti nella ricerca, però non va dimenticato che a Siena e anche a San Polo di Torrile, in provincia di Parma, e a Baranzate voi avete importanti stabilimenti produttivi. Voi siete un'azienda manifatturiera in Italia. Però sono contento che di questo miliardo di investimenti 500 vanno in ricerca sulla ricerca di Siena, altri 200 vanno in ricerca collaborativa con l'istituto di Telethon, perché quello che vorrei dire è che in questo paese abbiamo tutte queste grandi eccellenze, quindi è vero che noi stiamo contribuendo al sistema italiano con questo miliardo, però stiamo investendo in eccellenze per cui GSK deve essere grata al sistema italiano. Tutte queste eccellenze messe in rete fanno grande attività di successo. Certo, però oltre alla ricerca c'è anche la produzione, anche perché diventa sempre più difficile separare le due cose. Per fortuna, quindi, quello che abbiamo scelto come modello in GSK è che negli stabilimenti, sia di Parma, di Verona che di Siena, produciamo per tutto il mondo. Quindi, ad esempio, lo stabilimento di Verona produce 70 milioni di flaconi che vanno di flaconi antibiotici per 25 milioni di pazienti nel mondo. E la produzione deve essere fisicamente contigua alla ricerca, giusto? Assolutamente, perché prima di fare su grande scala prodotti o vaccini bisogna farli in attività pilota, quindi la parte più difficile è il passaggio dalla ricerca alla produzione su larga scala, e su questo in Italia siamo veramente campioni, perché abbiamo tutti gli elementi per poter fare ancora di più. Quindi quando aspiriamo di diventare il primo produttore farmaceutico non è soltanto di attività generica, ma di attività dove c'è molta ricerca dentro. Cioè aspirate a diventare il primo produttore farmaceutico italiano? Come sistema farmindustriale, quindi del gruppo del settore industriale in generale. Oggi penso che GSK è il primo player industriale italiano del farmaceutico di sicuro. E quindi puntate allora a una leadership europea, una leadership mondiale nei settori di riferimento? Quello che cerchiamo di fare è di rendere questo paese più appetibile per gli investimenti esteri e rendere le eccellenze italiane e farle diventare eccellenze globali. Ci siamo riusciti, abbiamo delle eccellenze che non sono soltanto nella nostra produzione, ma ad esempio in tutta l'impiantistica e in tutte le attività dei macchinari, perché chi collabora con noi in Italia diventa poi player globale. Certamente. Le grandi aziende di confezionamento di Bologna, la IMA, Marchesini, Coesia, lavorano con noi e poi vanno sui mercati globali. Per far capire agli ascoltatori che cos'è GSK, sentite una breve scheda. GlaxoSmithKline, conosciuta con l'acronimo GSK, ha sede a Londra ed è la seconda multinazionale farmaceutica al mondo dopo Pfizer. È nata nel dicembre 2000 dalla fusione di GlaxoWelcome e SmithKline-Beecham. Produce 23,9 miliardi di sterline di ricavi, corrispondenti a circa 31 miliardi di euro, impiega 101.000 dipendenti in 89 stabilimenti produttivi in giro per il mondo. È tra i leader mondiali nel settore dei vaccini con 3,7 miliardi di sterline di ricavi e punta a raggiungere i 6 miliardi nel 2020. GSK basa il suo sviluppo sulla ricerca, nella quale reinveste almeno il 10% dei ricavi. La presenza italiana di Glaxo è molto antica. Il primo insediamento dell'azienda britannica in Italia, che aveva latte in polvere come core business, ha aperto a Verona nel 1932, con il nome di Società Anonima Italiana Nathan Bompiani. Erano gli anni del fascismo, quindi di ostilità alle aziende straniere, eppure la sede italiana di Glaxo riuscì non solo a sopravvivere, ma anche a consolidarsi, ponendo le basi per lo sviluppo successivo. Oggi GSK è la prima realtà industriale farmaceutica italiana con 5.000 dipendenti e 1,6 miliardi di euro di ricavi generati nel nostro paese. A Verona si trovano la sede direzionale ed amministrativa, uno dei due stabilimenti italiani dedicato alla produzione di antibiotici ed un centro internazionale di packaging design, nonché la sede della consociata VIIV, specializzata nei farmaci contro l'HIV/AIDS. A San Polo di Torrile, in provincia di Parma, opera la seconda unità produttiva di GSK, dedicata per il 90% all'export e alle produzioni più innovative e diversificate, cui associa lavorazioni per conto terzi di farmaci pediatrici ed oncologici. Entrambe le unità produttive sono certificate FDA e forniscono oltre 120 paesi nel mondo, fra cui Stati Uniti, Giappone, India e Cina. GSK in Italia ha altri tre stabilimenti. A Baranzate, in provincia di Milano, ha sede la consociata Consumer Healthcare, dedicata al parafarmaco e ai prodotti per l'igiene orale. Mentre a Rosia, nell'entroterra toscano, GSK produce i glicoconiugati e i vaccini salvavita contro meningite e HIV. Infine a Siena, con uno dei tre poli di eccellenza a livello mondiale di GSK nella ricerca e sviluppo dei vaccini, dove si lavora sulla prevenzione di infezioni batteriche come la meningite. Rieccoci in linea dopo la scheda. Ecco, una cosa che le volevo chiedere: voi avete fatto dell'Italia un'importante base industriale di ricerca per alcune specialità. Ma tutto questo è avvenuto in coordinamento con la politica? C'è stato un sostegno attivo del sistema paese? Se non c'è stato, ne sentite il bisogno? Insomma, ci vorrebbe una politica industriale? La politica industriale è qualcosa che auspichiamo da tantissimo tempo, però noi siamo molto legati anche alla spesa pubblica farmaceutica, perché il nostro fatturato deriva da quanto lo Stato decide di investire sui farmaci. Negli ultimi anni, negli ultimi tre anni molto è cambiato, perché c'è stata un'inversione di tendenza rispetto ai 10 anni precedenti, in cui avevamo tre misure governative ogni anno che non ci permettevano di pianificare nel lungo periodo. Da 3 anni a questa parte abbiamo visto che c'è molto più interesse, visto proprio il valore industriale di questo settore, da parte del governo e da parte delle istituzioni, da parte delle agenzie del farmaco. E su quello stiamo cercando di costruire una politica industriale che ci permetta di poter attrarre ancora più investimenti in questo paese. La strada è ancora lunga. State cercando di costruire una politica industriale a che livello? Di GSK o di Farmindustria? Di Farmindustria, c'è un tavolo aperto col governo, si sta parlando proprio in questi giorni della governance del settore farmaceutico. Ci sono tanti dati positivi fino ad oggi, il Jobs Act sicuramente aiuta, il Patent Box, che sono dei crediti importanti per i brevetti, aiutano. Lei ha un ruolo anche in Farmindustria? Ho anche un ruolo di vicepresidenza di Farmindustria. Senta, in due parole, come sarà GSK in Italia nel 2020? Nel 2020 GSK sarà, l'Italia sarà per GSK il polo più importante al di fuori della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Ah, polo di ricerca, polo di produzione, polo di vaccini? Ricerca industriale con grandissima attenzione ai vaccini. Ecco, ma voi assumete? Noi negli ultimi 5 anni, quindi quando l'occupazione non cresceva di sicuro in Italia, siamo cresciuti con l'occupazione del 17%. E state ancora assumendo? Perché vorrei dare almeno una casella email ai nostri ascoltatori per mandare curriculum se hanno laurea in chimica o in farmacia o in medicina. cerchiamo laurea in medicina soprattutto. Ah, laurea anche in medicina. E dove vi devono scrivere? Basterebbe andare sul sito igsk.it e trovano tutto quello. Anche perché sto miliardo di investimenti vuol dire poi assunzioni. Vuol dire comunque mantenere già quello che abbiamo e cercare di migliorare la nostra base produttiva. Senta, il tempo è tiranno, la devo salutare, però spero di averla nuovamente con noi. Grazie comunque, dottor Finocchiaro. Con grande piacere, grazie a voi. Arrivederci.